Vieni, avvicinati alla signora rapidamente che è impegnata. Come si chiama? Solo il nome, non il Giusy. Giusy. Sei di Lizzano? Sì, non da tanti anni. Ci sono dei suoni piacevoli e non piacevoli? Quando apro la finestra? Non piacevoli il traffico. E piacevoli ogni tanto si sente qualche uccellino cantare sugli alberi. Come si vive a Lizzano? Cioè, abbastanza tranquillo, dai. C'è qualcosa che lei che manca, di cui sente l'esigenza invece a Lizzano? Per esempio delle passeggiate tranquille sono lontane, quindi andare sul fiume. Quindi quello le manca? Sì, sì. Mancano passeggiate tranquille sul fiume? Sì, in posti ciclabili, diciamo. Ah,